si è finito. Non va Giulio. Qua. Non lo so, forse sta facendo. Oh yeah. Ecco qua. Mi è caduta la cuffia. Non riuscivo a raccoglierla. E mi c'è una parte. No, dovrebbe andare bene, non penso ci siano problemi. E io sono uscito presto oggi, e tre giorni non accedo manco la radio, tra impegni con mia figlia, impegni di lavoro, casino nero. Questi sono impegni, secondo me te sono più importanti della radio, per cui va bene così. Ma non ho mai fatto ancora nessuno questi giorni, lui, per carità. Che vuoi che ci sia un questo caldo, a stare attaccato al baracchino, la gente che c'ha il baracchino in cucina lo può fare, capito? No? Come me c'è una sola radio, già lo sai, a stare chiuso qua fa troppo caldo, anche se c'è la finestra aperta, però sempre il caldo c'è. Anche peggio, quando lasci la finestra aperta entra con l'aria calda ed è ancora peggio. Se invece la chiudi, diciamo che si fa meglio, ecco. Io stavo vedendo quelli qui a casa mia, tanto più che la sera no, in questa stanza gira il sole da tutta da questa parte, per cui se lasci la finestra aperta è quasi impossibile starci. Se invece la chiudo, ci sono vedo più vetro, eccetera, e diciamo che il caldo rimane all'esterno, non all'interno. Infatti, non lo so, bisogna vedere poi se c'è caldo, freddo, adesso c'è caldo fuori, però c'è vento fresco, capito? Quindi già va bene. E quindi non si è sentito nessuno? No, non si è sentito nessuno. Anzi, ieri sono stato un quarto d'ora, qua fa il piacere, ma nessuno si è affacciato. Per cui ha fatto un peggio che mai. Vabbè, comunque. Tutto al mare, ad abbronzare le chiappe chiare. Oh, così è. Vabbè, chi è che sta protestando? Avanti, chi è? Anche non sentite, no? Perché stavi parlando? No, io non ho sentito niente, la verità, perché c'era una portante, non so chi era che stava accordando, stava facendo. Così è. Va bene, ciao, vale, buonasera, ben ascoltato, scompagnia di Giulio. Tornando avanti, se lo senti, avanti. Lo senti a fare di oggi? No, c'è la preparazione che la coppia ho qua. Non ti accoppia Giulio, Marì, capito, non ti sente. Io se stai parlando con qualcuno non lo sento, perché ho QRM molto alto, propagazione molto alta. Non lo sento io a Giuseppe, ma sta parlando qualcuno, non arriva nessuno qua, dopo c'ho QRM alto, poi Giuseppe, vado lineare, ma se lo guarda con gli occhi però non lo accende, capito? È un problema, se non consuma troppo. Avanti Giulio, riprendi. Ah, ok, qua. Allora non sento tutto per niente. Nulla. Evidentemente non è possibile perché io ho sempre quel discorso dell'antenna. Basta. Questo di poco, per cui va comunque. Questa sveglia mi sembra. Anzi, addirittura ho parlato anche ieri con Continente. Infatti ieri, non essendoci stato nessuno, ho fatto un paio di chiamate sulla 27500 con Aldovani e dunque non ho risposto. Ma ho chiesto anche di mandare la cartolina e andando a Giovanni della Valdo, uno di questi giorni, tanto più che domani avrò qualcosa da fare anche. Va bene, dai, non è un problema. E cosa ci vuoi fare? E cosa ci vuoi fare? Niente. Nulla. Già va bene, già va bene. Sono rosso, stanco morto. Ho acceso, ho sentito questa portante. Non so chi era. Qualcuno lo stava provando. Mi sono entrato, ma vado un po' a sistemarvi giù, se ci sentiamo più tardi. Perché sono stanco morto. Volevo salire alla radio. Con la radio già ne troviamo tempo. Figurati. Attendi pure qua, ci sentiamo eventualmente per tardi se coincide, se no pazienza, se no ci sentiamo la mano, uguale. Ok, allora qua, stammi bene e buon lavoro allora. Attendi pure, non ci sono problemi. Ciao. Ciao Giù, e invece stiamo un po', vedo un po' devo fare poi se mai viene, perché è presto, capito, sono 5:30 e ci auguro ancora mezza giornata, sono entrato erano le 3:30 passate, quindi da mangiare tutto, non è che sono rientrato da notte, da stamattina alle 6, quindi adesso vedo un po' cosa bisogna mia moglie queste cose, se devo fare un salto a usci e poi ci sentiamo, già c'è tutta la sera e... A voglia, ok. Salutami a tutti se li senti, se rimani in frequenza. Ciao Valeria, salutami a Giuseppe, io non lo sento, ciao ciao. Ciao Valeria, stavi ascoltando, io devo essere sincero, non ti sento. Qualche parola così, ma c'è una propagazione, non so se tu mi stai ascoltando, ma suppongo di no, eh. Comunque, diciamo che dipende soprattutto da me perché ho l'antenna del dipolo molto in basso, per cui non è così semplice arrivare lì all'Alghero. Dopo, ciao qua, ciao Valeria, ci sentiamo eventualmente in condizioni migliori, Valeria. Alla prossima, ciao qua, ciao. Ciao Giù, ci sentiamo dopo, più tardi. Potenza al minimo, c'erano le manopole toccate, no? E stavo guidando, non lo guido più a voi. Infatti senti quel tipo, bisogna dire le parole. Ho capito. Come sentivi invece? Eia. Certo, qualche problema di anch'io, ricezione, ma non è mai da passeggio? Ieri sì. E c'è anche Claudio? Come? Anche Claudio. No, ero con mia moglie in giro. No, pensavo che girella con questo, che a volte qui si porta gli occhi, ma sto studiando il gruppo. Ah no, c'ero io, Gian, e mia moglie e due amiche di mia moglie. Sei bacino di radio, Fra. Va meglio adesso? La bassa sei giù. Era a zero il microfono, era a zero. Ecco. Ho fatto anche diretta questi giorni. E io non ho avuto tempo, capito? Molti anche in Italia, molti di Pontancona, Trento, questa zona qua. Ho capito. Anche questo tipo era con la pumera, mi sentiva bene lo stesso, dai, qualche sono in fratello me l'ha sto togliendo. Se essere con la pumera. Canta, boh. E tu novità? No, ragazzi. Quella storia poi come è finita? No, non c'è saputo più nulla. Ma sei andato tu? Io sono andato e c'ho qualcosa pronta, se dovesse succedere qualcosa. Ti hai spiegato la situazione? Sì, sono andato e gli ho spiegato la situazione. Mi hanno dato un modulo, io l'ho fatto al computer, filmato e adesso è pronto. Caricato, va? Capito? Sì, che cosa? Per distribuirlo, e dopo si arrangiano con quelli là. Oh, yeah. Ma di spalle oggi, mamma mia. La vecchiaia è carogna. La vecchiaia è carogna, che? C'è la strega, deve essere, il colpo della strega. Ma ho qualche contrattura alle spalle. Senta, da modo me l'ha passata a sinistra, adesso glielo sulla destra, sulla scapola destra. Mamma mia, poche fe, ma non sarà l'ovreddo della macchina, no, con il finestrino a becchio, che ti ha causato visto. A me già c'è anche l'aria lì, a volte anche l'aria condizionata. L'aria rientri sudato, vai in macchina per ripescarla, l'attacchi e la vuoi debuti. Infatti. È sempre lì, è sempre lì in agguato, ragazzi. Mi sa proprio che la macchina che ci rovina a noi. Noi anche stasera l'abbiamo accesa qui in casa, almeno può togliere un po' di umidità. Sì, infatti, però quasi un'anima laggiù. Lascio tutto aperto, non è che le tappe non le lascio chiuse, se no poi in quella dovente c'è la ghiaccia, ragazzi, dove c'è così sembra un po' tutto. Sì, è caldo, sta facendo anche oggi. Ma io stanotte me ne devo andare a pescare con Gian. Sì. Bella. Che zona siete? Non lo so dove vuole andare. Adesso vediamo. Mare, dico, a mare di Furio oppure dalla spiaggia? Oh, non lo so dove vuole andare, a dire la verità. Non ne abbiamo discusso. Adesso quando vado a casa sua ne discutiamo. Ma che Gian è pescatore allora? Da una vita, anche io andavamo assieme a pescare. Sì, no, cioè è bello, va. Io avevo preso una bella figola, mi sono detto, te l'avevo detto, no, non me l'avevi detto. Stavo pescando la galleggiante, quindi con la bolognese che è sottile lì, e si è attaccata la bestia, sicuramente come ho patturato, no? Si avvicinano tutte le occhiate, piccoline, taraghetti. La pattura con il mare agitato, quindi vedo la schiuma, e lì era in caccia del vecchio, era beccato il petto del gambero che ci metto io come mezza. E figurati che siamo terminati 014, mamma mia, meno male l'aveva appena cambiato. Davvero, mia roba di... Comunque un paio di chili a volte penso che fosse, non l'ho pesata, la verità, però è una bella bestia. Quelli lì, quando sono a caccia, li dici. Qua dentro non c'era nulla, non aveva un pescetto, niente, invece che era a dieta proprio. A fame l'ho presa. Bella, pure è sana. A volte cazzo che tu prendi un ciaraghetto, vedi, ti vai neghito, una presa all'altro. Infatti. Bella però. Guarda, fa un bello schiaffo morale ai miei colleghi. Non è che posso vincere sempre loro. Infatti, una bella fotografia, la viuvate, che li fa. No, no, però ci fate venire in diretta perché eravamo assieme, però ognuno si sceglie la sua postazione, no? Quindi ci dividiamo un po', a volte ci vediamo, a volte siamo anche magari a un chilometro l'uno dall'altro. E cosa hai pigliato? Io qui una donzella mi guarda a vedere. Ed è là, va. Sì. Un donzellone, ci aspettiamo di perderla lì con quella lente, invece piano piano mi... quel mare quando rientra in dentro, ma la torre ne tira di più. Piano piano, gradino per gradino, l'ho portata fuori. L'ho chiappata al collo, gli guardo, yuhu! Dopo l'ho chiappata, però. Con quel terminale lì. Sì, non capita tutti i giorni, davvero. Potevi perderla, se si spettava la lente di tutti. Ma la fortuna, ripeto, è stata che ho cambiato il terminale. Hola, attenzione 10. Non trova proprio gradinella, mi ha aiutato anche per quello. Che poi noi il corpo non è che ce ne portiamo lì. Molto invece ci porta anche il guadino, quello lì. Allucinante. Comunque meglio sempre cambiarlo, allora c'è un terminale così. Non va in uvo. Perché cazzo è difficile prendere, se tira a me dopo si spezza e la puoi perdere. È che io non stavo pescando a lei, capito? Lei è stata un po' di fortuna, io vado a stare, io piatto, roba così, è che a volte si attaccano anche loro. Molte spesso volentieri ho preso anche qualche bella orata, non grandissima, però magari da mezzo chilo si attacca. La mascotte per esempio ho perso un sacco di canfere, come si chiamano in italiano, di tanute, da chilo mi. Però era una scogliera alta magari di 5-6 metri sotto il livello del mare, io ero sopra il livello del mare, là. Quando andavi a passare lassù si spettava. Ma bella fortuna. Ho preso anche un'occhiata, una volta mi è caduta nel crepaccio, proprio sotto i piedi, la vedevo ma non riuscivo a prenderla con le braccia, non ci arrivavo, ed è rimasta lì poverina, avrà sofferto. Vabbè, non possiamo vincere sempre noi, ogni tanto vincono anche loro, diamogli la possibilità anche a loro di vincere e di scappare. Sì, va. Deve essere un divertimento, Poi c'è un altro mio collega che quello è proprio accanito, guai, se ne perdeva pure guai, si cazzo con la iena. Per la caccia c'era mio cugino che era accanito, se lo pigliava nuda si incazzava. È come se ne fa a parlare altre cose. pago niente, se non cacciavo niente non me ne sbatteva. Non ero accanito come quello lì. Ma figura di natura, una bella passeggiata. Un'altra storia, dai. Sì, fra. Ma a volte mi sono un fughi, mi ricordo. Ci sono venuta anche cosa da voi della sciampa. A volte gioca minuta. Pazienza, se non c'è niente. Allora signor, a che ore sono? Ehi, fra un po' me ne vado, che devo andare a casa di Gianni, così carichiamo tutti e andiamo. Ehi, e cosa ha sentito lui di chiamare? Claudio? No, la verità non l'ho sentito a nessuno stasera. È un po' che non l'ho sentito, eh. Ehi, avrà qualche impegno, magari è stanco e non è a voglia, boh. Era per io, già. Andiamo, dai, ci aggiorniamo allora, alla prossima. Ciao. Ciao, fra, ciao, alla prossima. Ora, ora, attenzione, canale 10. Attento Marco Condor, ci sei? Ora, ora, attenzione, canale 10. Attento Marco Condor, ci sei? Ecco, attenzione, canale 10. Ora, attenzione 10. Pomponio! C'è nessuna questione di questo. アフリカ向けの 6.010